Ci sono storie di un passato tanto remoto che lasciano un segno tanto profondo da venire dimenticate o scambiate per altre storie. Storie di un passato ben più recente che confondono chi cerca di riesumarne in passato remoto e si ritrova a suo maldauto a leggere storie meno remote e molto, molto meno gremite. Qui stiamo, come d'autunno sugli alberi le spoglie, raccontando un passato che il tempo raccoglie, cercando le stringhe di quel che ci volle per dare alle folle gremite il suo folle. Viva il remuschio, un po' donna e un po' maschio. Viva il sarcastico re col suo lascito. Onirico nano, rossiccio e robotico, gioca col logico nel mondo più illogico. Capitolo 3. L'Amhecca. Dopo aver passato il cartello che indicava l'ingresso negli umidi territori del reame di Nutria, all'orizzonte videro quella che ai loro occhi sembrava un'immensa foresta di baobab in lontananza. Tuttavia bastarono pochi passi per capire del grossolano errore. La foresta che si presentava davanti ai loro occhi era in realtà niente poppo di meno che la leggendaria foresta di baobab bonsai in vicinanza, che circondava interamente la zona delle sette paludi, in cui, poderosa e filiforme, sorgeva l'Amhecca. Non sembrava vero che un tale sconclusionato gruppo di individui così diversi fosse sopravvissuto per ben due volte all'attacco degli agender del male, a superare le distese delle grandi distillerie di olio di panda, a oltrepassare il passo Echiudo e ad aver guadato il rio Mare, un fiume tanto grande da sembrare un mare o un mare tanto piccolo da sembrare un fiume a seconda della sponda da cui lo si guadava. Lo Stremingo si passò affaticato il gomito sulla fronte per asciugare il sudore e guardò i suoi compagni di viaggio. Sembravano esausti. Il bambino inspiegabilmente aveva perso le sue formidabili capacità ed era tornato ad essere un normalissimo bebè. Dimitra non riusciva a tenere gli occhi aperti dalla stanchezza e soffriva per le sue emorroidi a grappolo, dovute ai troppi giorni di dieta a base di pastelli. Il bue gazzella era tanto magro ed emaciato da sembrare quasi un vitello cerbiatto, animali molto diffusi nelle streaming belt. Decise quindi che era venuto il momento di accamparsi per la notte. L'indomani avrebbero dovuto arrabattare dei posti nel veliero e salpare per i mari. Abbandonare per sempre Irlanda era per loro l'unica maniera per seminare una volta per tutte il dottor Gender. Montarono la tenda all'ombra di un favoloso bonsai, ma finirono per schiacciarlo. L'umidità che pervadeva i loro corpi era proprio come quella di casa. Inoltre, il modo in cui la giovane Dimitra sorreggeva al paiolo dove bolliva spumeggiante la cena, trascinò lo Stremingo in quel grande mondo che sta in ognuno di noi, che è la nostalgia. Di colpo fu sopraffatto da un turbine ineludibile di sensazioni e ricordi, e decise che questo era uno di quei momenti. Era un evento raro, si trattava di un antico stato di trance in cui ogni vero Stremingo concentrava le proprie energie vitali per deliziare l'umanità con un fantastico sonetto in streaming. La mia malinconia è tanta e tale, chi non discredo che, se egli sapesse, un che mi fosse nemico mortale, che di me di pietà non piangesse. Quella, per cum aven, poco ne cale. Che mi potrebbe, se della volesse, guarir un punto di tutte le mie male, se della pur itodio mi dicesse. Ma questa è la risposta coda lei, che della non mi vol né mal né bene, e che di vad a far li fatti miei. Ch'ella non cura si ho gioie e pene, men ch'una paglia che le va tra i pie. Malgrado n'abbia amor, calle mi diene. Il silenzio che seguì la solenne declamazione fu spezzato da un applauso solitario proveniente dall'oscurità, insieme ad un clap clap pronunciato vocalmente, peraltro con grande maestria. Tutto il gruppo si girò verso l'origine sonora e accesero i lampeggianti del bue gazzella per dissipare le tenebre. Il fascio di fotoni si riflesse frangiforme su due figure che a piccoli aggraziati passettini si avvicinavano. Il più alto dei due sembrava un paciarotto sulla quarantina, mentre al più altro dei due si poteva affibbiare qualunque altro aggettivo tranne polifonico. Spegnete quei fanali che ci accecate e ditemi Che tipo di bestia è quella? È il nostro bue gazzella da viaggio. Tu piuttosto, che razza di domande fai? Chi sei? Cosa vuoi da noi? Ma come sei vestito? Ma ce l'hai uno specchio, frate, ma ti sei visto? Rispose acida Dimitra con quella sua inconfondibile naturalezza e quell'innata scortesia. L'alto dei due sorrise socchiudendo gli occhi e rispose con una cortesia molesta, fuori luogo. Saluti a voi, forestieri. Siete di passaggio o siete venuti per forestare? Che magnifica creatura che vi portate al seguito! E anche la vostra cavalcatura è decisamente invidiabile. Se solo avessi la maggiore età. La maggiore età è un tipo di documento amministrativo dalla storia fumosa e l'utilità dubbia. Si tratta del permesso di guida per veicoli non volanti. Sembrerebbe ragionevole se non fosse per il fatto che veicoli volanti a Lamhecca non esistono, essendo la sua civiltà ferma all'età del planaggio. Lo Stremingo, un po' scioccato dalla gentilezza dello sconosciuto, decise di assumere il tono di Dimitra. Si rimboccò le gomitiche, maniche dei gomiti, ed esclamò con la sua rabbiosa R moscia: Senti, non siamo qui a raccontarti i fatti nostri. Noi vorremmo solo dormire e raggiungere Lamhecca nel più breve tempo possibile. Smettila di fissare e vattene, troglodita. Domani ci aspetta un lungo viaggio e dobbiamo riposare. Ah, ma allora casco a lenticchia. Cercavo giusto dei compagni di viaggio per la traversata con la mia barca, la fagiuolo. Peraltro con ogni comodità e il pass per entrare direttamente, evitando ogni tipo di controllo. Se vi va, siete benvenuti. Mi aspetto come minimo che abbiate a bordo un massaggiatore di gomiti. Rifiuteremo agilmente le vostre assurde proposte e scateneremo su di voi l'impetuosa suturazione del bue gazzella. Risparmiate il sudore, non ve ne sarà bisogno, perché abbiamo a bordo il miglior massaggiatore d'Irlanda, il professor Al Trow, più conosciuto col nome di Virginio, dottor medico di fama continentale, proprio specializzato in massaggi alle ginocchia. Le mostri, professor maestro. L'altro, Al Trow, con un gesto teatrale equivoco, nel senso del cane, azzannò il sontuoso mantello color moquette che portava sulle spalle e scoprì il suo corpo nudo agli avventori. Quando ci si mette la natura. Il dottor medico era infatti privo di arti superiori, con un solo gomito nel mezzo del petto e non due, ma ben due paia di ginocchia, peraltro ad altezze diverse e orientate per un curioso caso del magnetismo verso i quattro punti cardinali. Nel vedere ciò, lo Stremingo non nascose un fremito d'emozione ed esclamò speranzoso: Ma lei è uno Stremingo? Sì, solo in parte di sorella, però. E purtroppo mio fratello non l'ho mai conosciuto. Ci ha lasciato quando ancora ero in fasce e nella mia famiglia non se ne parla molto. Allora non possiamo che accettare la sua offerta, nonostante lei ci stia incredibilmente antipatico, e preferiremmo abbandonarla alla mercé del nostro erbivoro. Ma parrebbe che abbiamo bisogno di lei e la tollereremo. Il gruppo pretese che i preparativi per il viaggio, più pesanti e umilianti, fossero affibbiati all'alto dei due, che non sapeva più come ringraziarli. Dopo aver aspettato che spegnesse il fuoco, smontasse la tenda ed eseguisse la toelettatura del possente animale, finalmente il malassortito gruppetto partì col favore delle tenebre. Giunti alla riva della palude, rimasero estasiati dalla magnificenza del veliero muschiato che li avrebbe traghettati fino all'Amhecca. Durante il viaggio scoprirono diverse cose sul loro traghettatore, tipo che faceva parte di una famiglia reale, di veri Ganzi, e questo gli conferiva grandi e innumerevoli privilegi. La società di Lamhecca era infatti suddivisa principalmente in due giri, il giro dei Ganzi e il giro degli sfigati di merda, a loro volta diversificati in innumerevoli sottocategorie sulle quali non ci soffermiamo. Erano sfigati di merda in quanto provenienti dalla leggendaria città di merda, luogo fantastico e pulitissimo che nel corso del tempo fu annessa alle poderose fogne di Lamhecca. Le lunghe ore di navigazione misero appetito all'equipaggio e lo Stremingo, per lenire il senso di colpa che provava in generale per tutti quelli con meno gomiti di lui, e in particolare per l'alto dei due, decise di offrire i suoi famosi biscotti all'acqua frizzante, fatti a regola d'arto con olio di gomito. Quel pacifico gesto, pieno di buone intenzioni, gli ricordò come mai aveva smesso di essere gentile con gli altri molto tempo fa. Non appena l'alto addentò l'effervescente biscotto, cominciò ad agonizzare. Acqua frizzante! Riuscì a pronunciare tra rantoli e orrendi spasmi. Allarmati dall'invocazione di aiuto del poveretto, si affrettarono a fargli un impacco di acqua frizzante, tanto fresca da ringalluzzire chiunque, ma ciò lo portò ad una morte atroce e repentina. L'alto se ne andò con un ultimo ringraziamento all'infame combriccola, che aveva già digerito il dispiacere. Scellerati! risuonò dalla maestosa stiva la voce di Altrow. Cosa avete fatto, malcreati? Il mio magnate era allergico all'acqua frizzante. Di colpo la loro situazione tornò alla precarietà di sempre. Ma in più, con un cadavere di alto lignaggio a bordo e diretti verso una città sconosciuta di cui il morto ammazzato era un importante membro, la loro unica possibilità era Altrow, che conosceva la città e avrebbe saputo come muoversi, e si rivolsero a lui implorandolo senza un minimo di dignità. «Vi siete proprio cacciati in un bel guaio», disse il massaggiatore deforme. «Non ci metteranno molto a scoprire dell'omicidio, e tantomeno a eseguire la condanna prevista per l'uccisione di uno così ganzo. Aiutarvi mi comporterà dei rischi considerevoli, e i rischi vanno ricompensati». Fu subito chiaro a tutti cosa volesse in cambio. Il dottor medico accarezzò il bugazzella volante con il suo unico gomito, lo ammirò con uno sguardo ammiccante sul volto e un'incazzante spassosità. Why did you? eccoci tornati su Radio ZM. Ed eccoci tornati su Radio ZM, ora ci sono. Yeah. E terzo capitolo per la saga del Re Muschio, siamo felicissimi, siamo trepidanti di capire un po' come si svolgerà tutto. Io non ho ascoltato, ma mi ascolto il podcast perché poi alla fine usciranno tutti i podcast. Certo, così tra una roba e l'altra che uno non ha da fare stando a casa può andare a sentirsi podcast. Quindi, il palinsesto di oggi prevede anche la replica della puntata di ieri, se le compagne di Non Una di Meno l'hanno caricata sul sito, sul loro archive, verso le 18-19, adesso non ricordo perché qui siamo veramente, veramente pieni tra la solidarietà e tutte le altre cose, alle 19. Quindi vi ricordiamo l'appuntamento per le 19 e il programma è su Facebook, Riccardo l'ha pubblicato, quindi ci sono un sacco di cose super divertenti. La quarta pillola di ecologia domani, che Riccardo sta preparando a casa. Sì. Zona rossa, Le Ribelli giovedì con una puntata che, guarda, non faccio spoiler perché sennò potrei essere picchiato malissimo, ma molto molto divertente, molto interessante, quindi sintonizzatevi con Le Ribelli giovedì. Venerdì abbiamo Sushi con Cortocircuito e aspettiamo Dado che ci manda un po' di techno. Insomma, buona settimana su Radio ZM e ci sentiamo alle 19. Ciao a tutti, ciao a tutte.